dai. Appassionanti, ecco. Appassionanti. Belli, belli no. Mi sembra una parola grossa, secondo me. Qualcuno adesso dice avete visto le sette partite non erano quella mostruosità che sembrava. Io sono contrario per principio. E io sono contrario come te e certo un appassionato se gli dai gara 13 sul 6-6 continuerà a gradirla e a palpitare, ma io vedo che nei terzi, soprattutto nei quarti si gioca un altro pallacanestro, ovvero non si gioca più a pallacanestro, palla alla guardia del momento che fa un bel 1-5, sfinimenti atletici, Hackett che è mostruoso per 3 settimane e poi precipita, certo, nella stanchezza, così come da Tome, così come Aradori. È giusta l'osservazione di quali straccetti arriveranno dell'allenatore della nazionale dopo questo stravolgimento. Tuttavia è giusto dire come fai? Momenti agonistici, quel canestro decisivo a 62 centesimi di secondo, certamente sono cose straordinariamente apprezzabili e godibili, certo, per tutti noi che amiamo questo sport, ma questo direi sport, che magari al meglio di 5 partite. Ma grazie della lezione che mi hai dato, perché ho detto belli, invece sono semplicemente delle spremute di adrenalina e di quello che resta dentro i giocatori dopo questa stagione. Secondo me è un inutile massacro queste 7 partite, hai ragione tu. Credo di sì, anche se mi astengo dal dare lezioni a nessuno, esprimo semplicemente delle opinioni, ma in questo caso anche da appassionato. Grazie direttore. Grazie a tutti voi. Un abbraccio a Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Il tifoso di calcio usa in Bolt. Gli chiediamo di Mario Balotelli. You know Mario Balotelli, do you like him? Un grande calciatore, forse un po' troppo aggressivo per i miei gusti, ci dice. Non sbaglia mai un rigore. Un paio di volte mi è capitato di averlo vicino e non mi è stato, per la verità, molto simpatico, ma per me resta un grande. E Balotelli che risponde: Bolt non mi conosce, come si permette di dire certe cose? Sto vedendo passare sui monitor le immagini dei preview della finale NBA che ci aspetta da questa notte, cioè gli storici ormai antichi San Antonio Spurs di Ginobili, Duncan, di Parker, gli immortali, e contro LeBron James e Miami, che diventare immortali vorrebbero, non ci sono ancora riusciti. Il titolo dell'anno scorso è un primo tassello, vediamo se arriva questo secondo. Per chi fate il tifo voi, al di là di Federico che su Twitter scrive a noi vecchi speroni ovviamente di San Antonio, di Mazzari all'Inter non ce ne importa nulla, va bene, però a molti altri qualcosa importa, io credo. Parlate di quello che volete, Alessandro da Roma, Roberto da Modena, Stefano da Lecco, 800 24 00 24, da San Antonio a Mazzarri, che prima avete sentito forse ho trovato un nuovo sponsor negli avvocati divorzisti di tutta Italia. Avete sentito quella dichiarazione? Come ogni matrimonio è destinato a finire, poi si è corretto un pelo, però rimane forse la prima piccola gaffa di Mazzarri nerazzurro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Carlo Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie Alessandro. Allora, io vorrei parlare, sono un tifoso della Roma, purtroppo deluso da ogni aspettativa della dirigenza romanista, che fa veramente completamente cagare, scusa anche dell'espressione. Perché, no, vabbè, questa non era elegantissima, ma cosa ne pensi dell'addio di Baldini? Guarda, io sono contentissimo. Sei contentissimo? Perché, sì, perché Baldini e anche Sabatini sono la rovina della Roma attuale, perché questi 2 anni hanno fatto solo che male alla Roma, sì, ottenendo nulla per 2 anni consecutivi su allenatori sbagliati, e come per esempio Luis Seriga l'anno scorso, quest'anno Zeman. Certo. E poi con Andrea Scioli. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Io a questo punto mi è da ridere, perché addirittura sento dire che vorrebbe venire Mancini, Roberto Mancini, che al Manchester City guadagnava tipo 12 milioni all'anno, qui a Roma ne hanno offerto 4 milioni. Sì, non so quale sia, ma poi sappiamo bene, Alessandro, quale sia il passato di Mancini. Non credo che, insomma, secondo me resta un allenatore vincente. A me non è simpatico, ma personalmente, e questo non c'entra nulla e non vuol dire nulla, però è indubbiamente un allenatore che, dove è andato, ha fatto buoni risultati, al di là di quest'anno al Manchester United, dove è stato licenziato in malo modo e in tronco, ma non dimentichiamo che, non United, naturalmente il City, ma non dimentichiamo che il City non vinceva lo scudetto da un miliardo di anni, quindi... Mancini non è andato bene in Europa, nella sua carriera mai è andato bene in Europa, però insomma, dove è andato i risultati li ha ottenuti, dall'Inter al City. Roberto Modena. Sì, ciao, complimenti della trasmissione innanzitutto, e poi io sono tifoso di Valentino Rossi e volevo la tua opinione. Cioè, a me lo dici per me... che io dichiaro il mio tifo e mi prendono tutti per il... facciamo naso. Beh, vabbè, dai. Comunque, io dicevo che purtroppo, secondo me, è arrivato il momento che si stacchi quel logo dietro, dopo scritto The Doctor, visto gli ultimi risultati. Tu cosa ne pensi? Ma Roberto, io penso quello che ho detto l'altro giorno, cioè che io detesto i tramonti, perché non sono un grande romantico, perché dei tramonti non me ne importa nulla, soprattutto se sono tramonti sportivi. Quello di Valentino Rossi, come quello di Schumacher, che somiglia molto per certi versi a quelli di Valentino. Insomma, io ho una dichiarata antipatia per questi momenti della giornata e dello sport soprattutto. Stefano Lecco. Sì, ciao Carlo, complimenti, ciao, per la conduzione diretta senza frontoli come piacerebbe. Grazie a te. L'argomento allenatore Roma, magari ne avessi già parlato, io purtroppo non posso seguirti tutti i giorni. Ma c'è sempre streaming, c'è sempre lo streaming, certo. C'è sempre il podcast, streaming è un'altra cosa. Il podcast lo trovate, radio24.it, nuovo sito tra l'altro di Radio 24 ormai da tempo. Dimmi Stefano. Per quanto riguarda l'allenatore della Roma, io vedrei bene un allenatore giovane, bravo secondo me, sfortunatissimo quest'anno con gli infortuni, che è Stramaccioni, oppure in questo periodo ha dato ormai tutte le sue carte, ora che qualcuno lo chiami campo a cavallo. E poi un'altra cosa, rumors dicono che probabilmente oggi, forse alle 18, lo Tito ha organizzato un incontro con tutti i tifosi della Lazio per alzare tutti insieme la Coppa. Non penso che ostentare il fatto che abbiano vinto sia ancora ulteriormente mettere il coltello nella piaga dei tifosi romanisti e di conseguenza provocare, purtroppo, come siamo conciati, ma questa, insomma, chi ha vinto ha diritto di festeggiare, non vedo perché debba suonare come una, dovrebbe suonare come una provocazione. Questo dipende da quelli che la sentono come provocazione e reagiscono in maniera idiota di conseguenza. Chi ha vinto ha diritto di alzare la coppa, di festeggiare, di organizzare quello che vuole, a mio parere. Quanta Stramaccioni non saprei. Secondo me Stramaccioni quest'anno ha fallito, forse dovrebbe ripartire per il suo bene anche da un ambiente meno incasinato di quello della Roma. C'è del cascato, scemo. Dai, sentiamo Under 21, ieri ha vinto, gol di Insigne, abbiamo battuto l'Inghilterra. Poi ci sentiamo dopo la borsa. Parte Insigne, la battuta di Insigne, sì. E arriva lo stesso il gol. Lorenzo il Magnifico esulta verso la propria panchina, va ad abbracciare i suoi compagni, va ad esultare di fronte ai tifosi, di fronte alla telecamera. Il vantaggio dell'Italia, Lorenzo Insigne, 1-0, Italia 1, Inghilterra 0, che gol di Lorenzo il Magnifico. L'importante è che poi alla fine abbiamo vinto, non è solito merito mio, ma è merito di tutta la squadra, anche chi è stato in banchina è entrato in partita in corsa, ha dato un contributo, e sono molto contento di aver portato la squadra alla vittoria. Vabbè, cioè noi di tutta la squadra accettiamo le scelte del mister, anche se mi toglieva, non era importante che chi entra dia il suo contributo, e ringrazio a tutti i miei compagni. Tutti convocati. Eccoci tornati, 800 24 00 24. Non sono d'accordo con Andrea, che scrive a messaggi SMS: saluto i bimbi che ci sono venuti a trovare in redazione al di là del vetro. Ciao a tutti. Convocati, convocatissimi anche loro, uno per uno. E convocati voi naturalmente, 800 24 00 24, mentre loro convocati se vogliono venire in studio a parlare di sport sempre. Non sono d'accordo, dicevo, con Andrea, che scrive: Mancini ha ottenuto risultati ovunque, ma dove? All'Inter solo scudetti di cartone o senza concorrenze, al City vincevo anch'io. Sì, questa storia del vincevo anch'io, soprattutto alla fine vince soltanto uno, quindi non sono d'accordo con tutti quelli che dicono: ah beh, Mourinho bravo, con quella squadra vincevo anch'io, ah beh, Mancini bravo, con quella squadra vincevo anch'io. No, non è così, perché alla fine vince uno solo, e quindi bisogna essere anche bravi a vincere con le squadre competitive. Fabio Pistoia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Un'incursione baschettara, ma che velocissima, siamo sempre sul pezzo, perché non vedo l'ora di vedere quel che resta dei giocatori in gara 7, da una parte e dall'altra, perché non cambio idea. Queste serie, al meglio delle 7 partite, a me non vanno giù, perché se si vuol vedere gli stracci o le controfigure dei giocatori zoppicanti andare all'ultimo respiro e all'ultimo canestro, va bene. Se si vuole vedere della qualità, allora facciamo qualcosa di diverso. Sì, esatto, io ho avuto la fortuna di poter assistere da tifoso varesino alle due ultime gare a Siena. Sono state emozionanti, quella di ieri sera in modo particolare. In chiave scudetto, volevo avere un pochettino la tua opinione, se Varese ce la farà. Sai che una come faccio a saperlo? Io insomma, io fortuna vorrei... almeno su via. No, io non tu lo sai che se ci ascolti, che non becco un pronostico da 74-75, quindi non voglio farne in questa occasione. La guardiamo. Io ti dico la verità, non pensavo che Varese riuscisse a prolungarsi la vita in questa maniera, ed è una squadra che non smette mai di sorprendermi. Cioè, Varese e Roma sono due squadre che costano come due giocatori di Milano, no, due giocatori da una parte e due dall'altra. Sono dei meravigliosi miracoli di artigianato e di qualità, insomma. Quindi io non posso che... Cioè, a me piacerebbe molto la finale degli underdog Varese contro Roma, e nessuno si offenda, neanche Claudio da Bologna. Buongiorno. Pronto? Pronto? Siamo sì, qui, buongiorno. Ascolti, io volevo solo intervenire sul discorso dei rigori di Balotelli. Secondo me fa sempre gol perché lui blocca la rincorsa. No. Che sappia io, non, una volta non si poteva fare, adesso evidentemente si può, però io mi ricordo che ho visto una partita in particolare col Cagliari, perché io sono tifoso del Cagliari, e per me quello lì era un rigore che non era valido, perché lui blocca la sua breve rincorsa, quando vede che il portiere si butta, lui tira dall'altra parte. Ma chiamiamola se vuoi freddezza. Chiamiamola se... No, ma è freddezza e talento, cioè non vedo un'interruzione. No, ma non dice niente, si vede che sarà bene. Sai, bene così. No, va bene così perché c'è un arbitro che conosce il regolamento, appunto, che valuta la rincorsa. Balotelli li tiene in quel modo e aspetta sempre l'ultimo momento, guarda il movimento del portiere, la tira dall'altra parte. Non è semplicissimo, comunque, anche se come tutti i giocatori di talento fa sembrare facili anche le cose più difficili. Non credo che ci siano delle pecche in quella rincorsa di Balotelli, altrimenti insomma, non credo che non ci sia niente di così semplice da valutare per un arbitro come la continuità del movimento in occasione del rigore, quindi secondo me Balotelli è bravo a tirare i rigori, punto e basta, in altre cose meno. Levanta os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Cante o tique bom! Tique, tique bom! Vedo che i ragazzi al di là del vetro apprezzano, ma che classe fate ragazzi? Ditemelo nel micro. Quinta elementare? Cosa volete fare da grandi? No, l'unica cosa che ho capito è il detective e il calciatore. Suggerisco di pensarci bene, ragazzi. La canzone che invece sentite, che io sono... onestamente lo dico a Franco Piantani, l'autore di questo programma, anche un po' stufo di riascoltare, magari troviamo una colonna sonora nuova, perché per Sarerrani sappiamo bene come Sarerrani e Roberta Vinci siano le Chic Girls che si caricano con questa canzone, però insomma troviamo qualcosa di diverso. Jacopo Lo Monaco che racconta il Roland Garros per i microfoni di Eurosport. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Aiutaci a trovare una colonna sonora diversa, perché le Chichi va bene, ma non lo so. Suggeriamo qualcosa di diverso nell'iPod. Avevi in mente cosa? In continuazione Benny and the Jets. Non so se posso aiutare, però mi carica abbastanza. Ti carica abbastanza, chissà, è importante che sia carica Sarerrani, che... Non ho dubbi che... Insomma, veramente carichissima. È veramente il confronto, dicevo prima con Franco Arturi, tra due estremi del tennis, no? Una piccolina, magrolina, con tante intelligenze e tante palle, dall'altra parte il massimo del gigantismo, cioè Serena Williams, una picchiatrice. Sì, infatti, fosse un incontro di pugilato non si potrebbe effettuare. Sì. Però a me piace come analogia un film sul pugilato, ovvero Rocky 4, cioè Sara deve essere Rocky Balboa negli scambi. Balboa è stato per 12 round, ha incassato Drago e poi ha iniziato a colpire. Lei invece deve incassare i primi 2-3 colpi, ovvero il servizio e la risposta e il colpo in uscita dal servizio. Se riesce ad arrivare al terzo quarto scambio, a quel punto può contrattaccare, può far male o con la sua varietà, la smorzata, il cambio alto o anche con il dritto. Sì, la chiave è quella, allungare gli scambi il più possibile, sì, e sì, far sì, faticare Serena. L'altra semifinale come la vedi? Che precederà quella di Sara? Vedo leggermente favorita la Sharapova, perché sulla terra tira un pochino più forte da stare in Casarenca, ma giocare sul ritmo, incontrare i colpi dell'avversario, le riesce benissimo sul cemento, sulla terra non basta, anche perché spesso il rimbalzo non è perfetto, e poi secondo me la Sharapova oggi partirà stra attenta, considerando quello che è accaduto invece con la Jankovic, la prima mezz'ora non ne metteva una in campo. Certo che considerando gli ultimi 3 anni, facciamo ormai 4, insomma, dicevo ieri, il cortile sacro di Parigi è diventato un po' il nostro cortile, almeno dal punto di vista femminile. Davvero, non ti avrei mai detto 5 anni fa, 4 anni di fila un'italiana in semifinale, e quest'anno è più dura delle altre volte come semifinale, nettamente più dura, però già aver ripetuto il risultato lo scorso anno, intanto ha battuto la Radvanska, non ha mai battuto una top 5, e a Wimbledon potrebbe anche avvicinarsi ulteriormente alla polacca e quindi avvicinare la quarta posizione mondiale, che in questo momento mi sembra l'unica raggiungibile perché le prime 3 sono più forti. Secco Jacopo. Io pronostici ormai non li faccio più perché mi prendono in giro. Secco chi vince il sbaglio solo chi li fa. Esatto, io li sbaglio puntualmente, quindi no. Ormai gli ascoltatori mi chiedono di farli per scommettere il contrario. Esatto. Senti, ma chi vince il titolo maschile? Il maschile. Non ho avuto questa sensazione prima dell'inizio del torneo, che poi si è rafforzata nel momento chi è scomparsa la sua primissima allenatrice, quindi dico Novak Djokovic, sì. Io tifo per lui e spero che tu abbia ragione. Grazie Jacopo Lo Monaco, buon lavoro oggi. Grazie a voi. E soprattutto in bocca al lupo alla Cichi Sara Errani. Ci sentiamo dopo il traffico. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. Tutti convocati. Parere autentico, Alessandro da Treviso, arbitro. Sulla rincorsa di Balotelli avvisa l'ascoltatore che la regola è cambiata già da qualche anno. Regolare i rigori di Balotelli. Freddezza, talento, scrive Flavio. Meglio dire furbizia, astuzia, come faceva Inzaghi rischiando al limite dei regolamenti. Non credo sia limite dei regolamenti, semplicemente ha grande abilità in quel gesto Mario Balotelli nell'esecuzione dei rigori. Allora, a proposito di sempre di Mazzarri e di Inter, abbiamo una opinione di uno dei miei interlocutori preferiti, di uno di quelli che mi divertono di più, Evaristo Beccalossi. Sentiamo cosa dice. Per ripartire credo di sì, mi è piaciuto che è arrivato con una bella pattuglietta dietro le spalle, che è molto importante, di collaboratori, perché credo che uno quando debba ripartire e ricreare una certa situazione è giusto che si muova con le persone di fiducia. A Napoli ha dimostrato di saper far molto bene, perché ha preso, mi ricordo che ha sostituito Ladoni e da lì secondo me ha fatto un grande percorso. Questa è l'occasione della sua vita, perché sai, migliorare il secondo posto a Napoli non è semplice, però qua invece devi migliorare una situazione che negli ultimi 2 anni sicuramente non è stata positiva, però bisogna farlo con grande umiltà, con grande tranquillità, perché ti ripeto, negli ultimi anni sì, qualcosa abbiamo sbagliato, però abbiamo anche vinto parecchio negli ultimi anni. Dunque calma e gesso, tranquillità, serenità e ripartire più forti di prima. E questo è questo il Beck sull'arrivo di Mazzarri e Evaristo Beccalossi con Dario Ricci. Gagliani non ha solo detto che c'è totale sintonia con Berlusconi, cosa che, se c'è bisogno di ribadire, magari vuol dire che davvero c'è qualcosa che non va. Però, non lo so, lascio il vostro giudizio. 800 24 00 24, non ha detto solo questo, ha lasciato anche qualche altra dichiarazione caruccia, come ad esempio: Tevez alla Juve mi dispiacerebbe un po', ma se fosse arrivato lui, come Gagliani aveva già fatto, aveva già costruito con un gioco di prestigio che vi ricordate nell'inverno precedente l'arrivo di Balotelli, ebbene, mi spiacerebbe un po' se arrivasse Tevez alla Juve, dice Gagliani, ma se fosse arrivato lui non avremmo Balotelli. E io tra Tevez e Balotelli non ho dubbi, prendo l'italiano tutta la vita. Ivano Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo, ogni tanto ci dimentica, mettere in risalto le 8 vittorie consecutive dell'Udinese, che è veramente qualcosa di eccezionale di quest'annata. Veramente non bisogna mai stancarsi di ricordare, è un'impresa in Serie A. Bravo. E ricordando certi dirigenti, certe squadre che Mario a quest'ora stanno mangiando e pranzando, io sono stato allo Stadio Friuli 2 anni fa con il mio amico Gerolini, a quest'ora c'erano 10 televisori accese in tutta Europa, in tutto il mondo, che si visionavano ragazzi, e 2 partite mi ricordo della Serie C di allora. Ecco, sì, questo forse è da mettere in risalto, certo, la grande Udinese. Certo, Ivano, fa bene, non c'è niente di nuovo, di inedito in quel che dice, cioè il fatto che l'Udinese abbia fatto un'altra stagione magnifica, la politica societaria, che è quella che lei ha ricordato. Poi è facile dire: ma guarda l'Udinese, ma basta copiare l'Udinese anche riferito ai grandi club. Non è così semplice, rispondo io, non è così semplice avere una rete di questo tipo, non è così semplice andare a reclutare giocatori di talento che poi insomma, possono, cui viene dato spazio, è cosa che non accade normalmente nei grandi club, che vengono valorizzati. Poi è chiaro, qualcuno emerge e diventa merce di scambio, diventa merce di scambio è un pessimo termine, diventa fonte di sopravvivenza, fonte di ulteriori investimenti per l'Udinese, e altri si perdono, ma queste sono le regole del gioco. Non è così semplice come molti pensano costruire una rete come quella dell'Udinese. Roberto, buongiorno, Modena. Buongiorno dottor Genta, grazie. Ciao. Per essere stato convocato. Ma grazie a te per aver risposto. Io volevo dare un consiglio ai dirigenti, se mi posso permettere, ai dirigenti della Roma in generale, perché io prima di scegliere l'allenatore della Roma... Di dimettersi, vuoi dare consiglio questo? Vuoi dare questo consiglio? Sì, prima di scegliere l'allenatore nuovo io cercherei di vendere Totti e, ma no, Totti, e De Rossi, che in questi anni non sono... hanno mai... Roby, è un discorso diverso Totti e De Rossi. Totti non lo vendi, Totti non andrà, cioè chiuderà ovviamente la carriera nella Roma, perché non può essere ceduto, ma poi non avrebbe nemmeno alcun senso cedere Totti, ma non avrebbe nemmeno probabilmente acquirenti che non stiano al di là dell'oceano, come è successo per Del Piero, ma non ha senso questo. De Rossi invece io credo ci siano le condizioni per una cessione di quello che io continuo a considerare un grande giocatore, che ha sentito il peso di un contratto estremamente pesante, e credo che possa convenire ad entrambe le parti, in questo caso la separazione consensuale, mettiamola così, per dirla alla Mazzarri. Allora io vorrei chiudere facendovi sentire Banchi, allenatore di Siena, e Frank Vitucci, allenatore di Varese. Ricordo che questa sera c'è Roma Cantù, gara 7, chi vince va in finale, tutto in 40 minuti. Domani sera invece Varese Siena, stesso discorso, tutto in 40 minuti, chi vince è finale per lo scudetto del basket. Nel farvi sentire Banchi e Vitucci vi saluto, grazie a Franco Piantanida, autore di questo programma, a Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2. È ovvio che questa partita ci ha riservato il peggiore epilogo che potessimo immaginare, però dobbiamo prendere atto dell'equilibrio che regna in questa serie e tenere alta la testa e mantenere la fiducia che, come è accaduto fino ad oggi, anche la settima partita di questa gara possa avere i connotati dell'equilibrio, sperando di avere una lucidità migliore per portare nel finale a casa le giocate che servono. Io penso che per come sono state le partite finora sia giusto e bello andare a gara 7, no? Sono state sempre partite molto equilibrate, molto punto a punto, siamo stati premiati dall'ultima situazione, quello. Ma una volta ogni tanto non c'è andata.